Il vento, venendo in città da lontano, porta doni inconsueti, di cui si accorgono solo poche anime sensibili. Un giorno, sulla striscia d'aiuola di un corso cittadino, capitò chissà d'onde una ventata di spore, e ci germinarono dei funghi. Nessuno se ne accorse, tranne il manovale Marco Valdo, che proprio lì prendeva ogni mattina il tram. Quella mattina, infatti, Marco Valdo notò qualcosa di insolito presso la fermata, nella striscia di terra sterile e incrostata. In certi punti, al ceppo degli alberi, sembrava si gonfiassero bernoccoli che qua e là s'aprivano e lasciavano affiorare tondeggianti corpi sotterranei. Si chinò ad allacciarsi le scarpe e guardò meglio. «Sono funghi, veri funghi!» Improvvisamente a Marco Valdo parve che il mondo grigio e misero che lo circondava diventasse tutto a un tratto generoso di ricchezze nascoste. Al lavoro era più distratto del solito. Basterebbe una notte di pioggia e sarebbero già da cogliere», pensò. E non vedeva l'ora di mettere al corrente della scoperta moglie e figli. «Ecco quel che vi dico! Entro la settimana mangeremo funghi! Funghi freschi!» «E dove sono questi funghi? Dove crescono? Diccelo, diccelo!» A quella domanda, l'entusiasmo di Marco Valdo fu frenato da un ragionamento sospettoso. «Ecco, che io gli spiego il posto. Loro vanno a cercarli con una di quelle loro bande di briganti. Si sparge la voce nel quartiere e i funghi finiscono nelle casseruole altrui». E allora urlò: «Il posto dei funghi lo so io e solo io, e guai a voi se vi lasciate sfuggire anche solo una parola!» Il giorno seguente, mentre Marco Valdo osservava i funghetti crescere, con il suo arguto occhio s'accorse di avere una figura alle spalle. S'alzò di scatto e cercò di darsi un'aria indifferente. C'era uno spazzino che lo stava guardando, appoggiato lì alla sua scopa. Quello spazzino era un giovane occhialuto e spilungone. Si chiamava Amadigi e a Marco Valdo stava antipatico da tempo. Sabato notte piove. Così Marco Valdo s'alzò e urlò dallo stupore: è la pioggia, andiamo, andiamo!» All'alba della domenica, Marco Valdo corse subito alla aiuola con i funghi. «Evviva, evviva! Che belli funghi, babbo! Guarda quel signore lì quanti ne ha presi!» «Ah, li raccogliete anche voi? Allora sono buoni da mangiare. Io ne ho presi un po', ma non sapevo se fidarmi. Più in là nel corso ne sono nati più grossi ancora. Bene, adesso che lo so, avverto i miei parenti, che sono là a discutere se conviene raccoglierli o lasciarli.» Funghi ancora più grossi, così vicino a me. Non posso perdere questa occasione. Andiamo, bambini!» Marco Valdo, preso da un momento di bontà, decise di invitare anche tutte le altre persone che erano lì ad aspettare il tram per andare a lavoro. «Ehi, voi altri, volete farvi un fretta di funghi stasera? Sono cresciuti i funghi, qui nel corso, venite con me, ce n'è per tutti!» Trovarono ancora funghi per tutti e, in mancanza di cesti, li misero negli ombrelli aperti. Qualcuno propose un pranzo collettivo, ma ognuno prese i suoi funghi e andò a casa propria. Ma si dividero molto presto, anzi, la sera stessa, nella stessa corsia d'ospedale, dopo la lavatura grastica che li aveva tutti salvati dall'avvelenamento. Nulla di grave, dato la quantità di funghi mangiati era assai poca. Marco Valdo e Madige avevano i detti vicini e si guardavano in cagnesco.